Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lestolmo Rock. In questo weekend che per l'ennesima volta purtroppo è stato colpito tra Emilia Romagna e Toscana dall'alluvione, spero che sia passata questa perturbazione, perché veramente meno male un po' da queste parti non se ne può veramente più. Dato questo un attimo questa introduzione un po' breve, un po' magari che purtroppo ho avuto qualche problema appunto che possa essere per quanto riguarda l'alluvione. Io questa domenica di Lestolmo Rock sono qui in intervista, quindi non è puntata classica un po' come la domenica scorsa, ma sono in intervista. Ve li vado a introdurre subito perché vedo che sono qua già carichi e non sto trattenendo le risate, quindi ve li devo introdurre assolutamente. Sono degli amici che datati da tanto tempo a livello internazionale, bene o male sono anche conosciuti perché hanno fatto diversi tour esteri. Penso che sia la band fast hardcore italiana per eccellenza, perché penso che alla velocità che andate voi oramai non ci sia praticamente nessuno. E quindi, detto questo, sono qui con me collegati da Marina Romea, se non sbaglio, gli Action Man. Yes. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Miao. Ciao ragazzi, come state? Bene. Bene, fa vedere che sei effettivamente. Gira un attimo la telecamera, che per chi sta seguendo su Instagram, che siete sul mare. Adesso così c'è un attimo esatto, quel muro. Eccolo. che viene tirato su per le mareggiate appunto invernali, per evitare che si dirami per tutta il esatto, paese, per tutta la pineta, la palude che abbiamo qua. esatto. Perché gli Action Man sono qui con me? Perché sono usciti con il loro quinto album, se non sbaglio, Speed of Life, e già come titolo va a dire tantissimo. Sono abbastanza sicuro di non avervi fatto questa domanda introduttiva la volta scorsa che avevo chiamato per Upa Baba, la seconda parte, diciamo, qualcosa per quell'album. Sicuramente la mia domanda introduttiva è: sicuramente avete saputo e sapete perfettamente che i NoFX si sono sciolti ormai ottobre dello scorso anno, quindi vi vado a chiedere brevemente cosa sono per voi i NoFX. Ma chi vuole, puoi partire te? Parto io? Parti te, sì. Ma per me sono stati tanta roba, perché comunque è stato il primo approccio, cioè post Green Day, Offspring, che magari li ascoltavamo più alle medie, non lo so, quando eravamo un po' più piccoli, prima superiore, grazie anche a Simone Brandi che ti segue in diretta, Sibode, DJ, vabbè, comunque amici delle superiori un po' più grandi che ti passano quei dischi che ti flashano, dicevi già, cazzo, gli Offspring, i Green Day sono una roba forte, e poi arrivano i NoFX e dici che cazzo è, bello, si può fare di più, e quindi sicuramente uno spronare ad andare più veloce, ma non neanche tanto andare più veloce, ma si può fare di più, ecco, per me. Dopo. Ma guarda, anche per me, come dice lui, è stato qualcosa di veramente importante. Poi nell'ultimo periodo un po' lungo era anche un po' triste vederli suonare, che magari c'era Fatmac che non ci stava dentro, però adesso io ho un bellissimo ricordo del Deconstruction del 99, dove quel festival lì è stato, sì, avevamo 14 anni, è stato il primo importante, sì, proprio l'impatto, sì, no, cioè, eravamo assieme tra l'altro, e lì proprio per me è stata una svolta vedere i NoFX in pompa magna Arena Parco Nord, Deconstruction 99. Per me hanno significato tanto, e poi da The Decline poi per me è stato un po' leggermente triste vederli un po' così dal vivo. Poi ovviamente c'è gente che li ama e possono fare quello che vogliono e va benissimo. Io fino a, adesso mi ricordo, qualche independent dove ci furono, proprio dove furono a suonare, è stato un bellissimo concerto, come forse anche al Rock in Idro, ho dei bei ricordi, dopo anche al Bayfest e tutto, era un po' leggermente triste vederli così, però sono stati un gruppo importantissimo. Madonna. Ed è per questo che era triste vederli in una fase, poi sono andato a vederli anche a Milano nel concerto, proprio il secondo dei due di addio, è stato emozionante, perché per me comunque è stato un gruppo che ha significato molto, come credo per tanti, forse quasi tutti, sì, della nostra generazione. Certo. Comunque ci può stare anche che siano, insomma, che abbiano deciso di finire. Nel senso, magari io rispetto anche questa cosa qui. Le cose sono belle anche soprattutto perché iniziano e finiscono. Quindi apprezzo anche questa cosa qua. Insomma, concordo. Ok. Dato questa piccola introduzione, che effettivamente lo ricordavo bene, non vi avevo fatto questa domanda. Rientriamo, sono sempre qui collegato con Matteo e Diego degli Action Man, che stavamo parlando. Inizieremo pure appunto a parlare di questo quinto album. Io dicevo, come avevo detto introducendo, nel check sound, diciamo, che faccio sempre a prima dell'inizio della puntata, questo disco velocissimo, super tecnico e più veloce che rispetto agli altri, giusto? Ci voleva un colpo di reni. Esatto, questo è il nostro colpo di reni, proprio l'ultimo colpo di reni che abbiamo in canna. No, beh, sono venuto così, questa musica così, poi ci piace suonarla da quando siamo piccoli, che sia venuto così, boh, ci sta. Adesso tutta quella fase poliedrica magari di Ramadama abbiamo superato, poi in realtà la viviamo anche in un altro modo con un gruppo che abbiamo io e lui, con il Cacao. Poi Pina la vive nei suoi gruppi rock and roll, che ne ha mille, e quindi abbiamo deciso, è venuto un disco sì, così diciamo senza contaminazioni eccessive, è venuto così, siamo contenti, ci piace, ma poi noi anche ci ragioniamo troppo, tanto a livello, non so. Insomma, sì, non è una, sì, ragionamenti ne fanno pochi. I ragionamenti poi non è che ha anche senso farne, perché poi suonare dritto per dritto. No, ma lo si fa perché chiunque lo fa adesso in Italia, ma ovunque, lo fa perché gli piace fare le cose, insomma, che gli vengono. Insomma, di calcoli se ne fanno pochi. Insomma, quel periodo lì, cioè quell'epoca dove magari poi insomma, noi non l'abbiamo mai fatto, però c'erano dei gruppi che arrotondavano un certo suono per avere più possibilità o probabilità, no, citando gli Shandon, è finito, non ha senso. Sì. Quindi, insomma, la cosa bella di sto genere è proprio la sincerità, e chiunque, insomma, tutti i gruppi che conosciamo alla fine sono da apprezzare, perché la sincerità è, nella musica che suonano, una caratteristica comune. È bella lì che sia così. Giusto, ci sta. E la cosa che ho notato, bene o male, che va un po' a seguire rispetto Upa Baba, la seconda parte, diciamo, che avete tirato fuori qualche anno fa, è sempre più parti strumentali rispetto che cantato, cioè quindi c'è meno cantato rispetto che un tempo, se non sbaglio. Sì. Beh, è cambiato il cantante, è cambiato lo stile. Però c'è, cioè, anche lì i calcoli ne facciamo pochi, ci vengono così, ci piacciono così. Poi ovvio siamo consapevoli che magari non avere ritornelli è qualcosa che magari rende l'ascolto un po' più ostico, però poi, cioè, sì, per una questione di sincerità noi siamo così, e insomma, cioè, dopo ognuno magari ha il suo songwriting, no? La forma canzone, per me, almeno per quanto mi riguarda, anche solo per il forse anche questa non è con un'ostentazione del suonare, però per come siamo fatti noi magari abbiamo questa roba qui che ci piace un attimo portare al limite quello che riusciamo a fare, e per quanto, cioè, io provo, per come sono fatto io anche, soprattutto nei testi, dico, provare a esprimere un concetto con meno parole possibili, poi chi vuol capisca e buona legge. Esatto, poche storie, poche chiacchiere, e ascoltati principalmente anche la musica, perché è quello che sto facendo, e c'è un messaggio comunque che vuoi comunque mandare. Giusto. E un po' sulla coda di Faded rientriamo. Per la coda ti piace, sale sulla coda, sale sulla coda, esatto. Com'è che era pure quel detto, appunto, se sale sulla coda, adesso mi sfugge, credo sia di mettere pressione a qualcuno, no? Sale sulla coda è qualcosa di fastidioso, che ti pizzica il pistolino, sì. No, per me la coda era la coda di un animale. Ah, ok, sì, forse vabbè. Sì, vabbè, però dettagli, pensavo un'altra coda, ecco. Tempi di sifilide, ci dice. per sanificare. Va bene, va bene. Tornando un attimo a questo, questo proseguimento ovviamente degli Action Man, date che avete da qui a fine dell'anno oppure quelle che bene o male avete già fissato, che potete dirmi? A qualcosa abbiamo, allora il 29 marzo a Biella, sì, Biella lì, Biella lì, e poi abbiamo 14 aprile al Drunken Public, Drunken Public con i 4AM, 13 aprile, una domenica comunque quella lì. Bella. Poi suoniamo a Lubiana, Metelkova, al Club Gromka il 19 aprile, quando divento quarantenne. Poi dopo facciamo il 18 aprile a Vicenza, al Refe, 30 aprile forse all'Arcicroen a Verona, poi 4 maggio al Bagno Chevida, Bagno Chevida, sempre qui in questa qua parte di Riviera. E poi boh, poi quest'estate sì, poi ce ne sono delle altre, però vabbè, 9 maggio al GOB a Livorno, 10 maggio Castiglione del Lago, Castiglione del Lago con i Cayman the Animal e i The Squire by, molto bella, e cioè bello rivedere anche amici da, più o meno sono questi da lungo tempo. Poi ne abbiamo qualcun'altra, qualche il Side Festival, il Side Festival 5 luglio. Ah è vero, questa è già uscita. Poi, sì, è vero. Poi ci andiamo dietro. Poi ci andiamo dietro. Poi magari ci siamo dormiti qualcosa, molto probabile. Però. No, vabbè, tanto bene o male direi che sulle varie pagine Instagram, Facebook o comunque vari flyer da qualche parte. Sì, adesso, il giorno prima lo diciamo. È giusto così. Uno ha tempo di organizzarsi e dire, vabbè raga, vado a Milano e mi diverto così. Esatto. O la va o la spacca. Esatto, o la va o la spacca. Per attirare dell'hype, un po' come fanno gli Screeching Weasel, che praticamente ti tirano fuori un album senza dire niente e poi ti ritrovi con l'album nuovo, dici ma è pre-order oppure no, singoli, loro ti dicono ciao, il nostro Carpe nuovo diem è uscito, esatto, se lo vuoi beccatelo, se no ciccia. Vecchio stampo. Sì, ma alla fine un pochino sì, perché c'era anni fa c'era questo discorso di questo singolone che veniva fuori, forse due, poi dopo usciva effettivamente l'album. Adesso si tartassa sempre solo sui singoli e poi questo fantomatico album alle volte non esce mai. Però no, noi siamo dinamica Spotify, sì, no, un'altra siamo pasta, poi ti devi sempre un po' adeguare ai tempi che corrono, però noi non siamo proprio portati. Abbiamo sempre un po' di latenza in queste dinamiche, sì, ma va bene così, insomma, per quello che siamo fatti così, per quello che possiamo fare, dobbiamo far noi, va benissimo essere noi stessi. Alla grandissima, anche perché poi è da un po' che non vi vedo sinceramente da live, quindi mi piacerebbe vedervi da live, e se riuscite a passare anche da qua da Bologna sono contento, se no al massimo vedo di spostarmi quando suonerete alle parti. Vieni anche via dal 4 maggio. Esatto, se proprio nel caso quella. Domenica pomeriggio, sempre bello, grande. Vabbè, dai, fattibile, domenica pomeriggio. Intanto c'è anche Cicco che saluta. E ciao Cicco. Cueco Mundo, non so chi sia, forse è un amico vostro. Carlito. Chi Carlo è? Curcella. Davvero? So Carlo. Ciao Carlito. Il nostro amico delle nostre parti. Quanti pesci? No, bandiere. U pesci. Ciao Romagnolo. Grande gente. Sempre a fionda. Tutti i nostri parenti. Vabbè, giustamente seguendo con l'altro account è giusto così. E comunque, nel caso che non stesse seguendo la diretta, 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp, che ho qua il bel tab davanti da me e lo posso leggere e vedere. Prima della fine della prima parte del Storm on Rock, vado a chiedervi, penso che sia abbastanza chiaro, però ve lo vado a chiedere per chiarezza mia, la foto che avete fatto della copertina è ovviamente un bagno da qualche parte, da quale parte vostre, giusto? Più Cesenatico, cioè è Cesenatico un bagno. È il bagno Sandgate a Cesenatico. Noi in realtà dovevamo fare qualche foto per il disco, è capitata, abbiamo deciso di farlo lì perché era un bel posto, poi quella foto lì è venuta bene, siamo contenti che... Grazie a questo nostro bellissimo amico Igor Orizzonte, che qua non si vergogna di farsi vedere, si dovrebbe portare da bere ma non ce lo sta portando e quindi... sì, vabbè. No, ci piaceva la foto, poi in sto genere qua vanno sempre di moda le copertine disegnate, noi invece ci piace insomma andare controcorrente, come vuoi te, quindi abbiamo deciso di mettere una bella foto così. Senza titolo, senza niente. Sì, ci sta. Infatti, perché quando ho fatto sono andato a vedere la copertina, vedevo, ho detto vabbè, li riconosco perché sono loro, però cercavo, ho detto beh, non c'è chi torni Action Man da nessuna parte, ho detto vabbè, pazienza, va bene lo stesso, però è giusto così. Seconda parte di Le Stormo Rock, sono sempre qui collegato con Diego e Matteo degli Action Man, intanto sempre fighi in 2, 4, 6, 10, ora è sempre, questo è sempre Jack, Jack scrive, anche lui amante degli Action Man da tanto tempo e giustamente... Lo salutiamo con grande affetto, con grande affettato. Ma anche no, magari è vegan. No, vabbè, dai, giusto così. È giusto dare l'affetto a chi effettivamente se lo merita. Comunque è giusto non tirarselo dentro, per dire. No, guarda. Ma continuiamo un attimo, anzi, ormai. Continuiamo con questa ormai. Seconda parte a parlare del Speed of Life. Come avevo un attimo anticipato nel check che ci eravamo sentiti prima della puntata, ho notato che, adesso è un discorso che andiamo un attimo a riparlare, però era giusto per richiedervelo un attimo e magari qualcuno era interessato, a livello dei titoli sono un po' meno... Meno gag, esatto, effettivamente. C'è qualcuno c'era, se non mi ricordo male, c'era qualcosa verso la fine che adesso non mi ricordo il titolo, però uno o due sono stati fuori. Però rispetto una volta sono molto molto meno. Prima aveva più fantasia. No, non è vero, no. Ma sì, no, sono venuti così, in realtà. Poi figurati, cioè noi le nostre risatone ce le facciamo sempre. Sì, diciamo che dentro non siamo cambiati. Poi magari, sicuramente cambierà, andando avanti con gli anni, cambia un pelo anche le dinamiche della vita di tutti, l'approccio, no? Anche quello che ti succede nella vita, sfighe, fortune, quel cazzo che hai, ci vai dietro. Non volevamo diventare troppo seri, ecco, però... Boh. No, ma poi neanche, soprattutto, sta necessità di ripetersi oppure di mantenere degli standard. Sì. Come magari i cantanti di Exploited che si fa la cresta finta perché non ha più i capelli, cioè siamo così e va bene così, ma anche a livello insomma emotivo. Sì, emotivo. Insomma, ha sempre senso essere quello che siamo in questo momento. Poi insomma. Diciamo che il disco parla anche, parla trasversalmente anche un po' di questo, cioè nel senso del tempo che passa. Sì, della vita con le sue. Sì. Cambiamenti sociali, cambiamenti anche crescendo, che dai, sì, adesso non è più, non ci sono più le mezze stagioni, è più tipo è volata, quando avevamo 19 anni adesso è volata e poi sono successe tante cose, ma è sempre bello anche comunque viverla così, continuare a suonare e magari anche vedersi crescere anche in come si suona. Certo, paradossalmente, certo. Quindi sostanzialmente il discorso sincerità deve essere di base comunque. Perché dici, beh, quello sì, nella vita, nei rapporti, almeno per come la vivi a noi, credo anche proprio come chiarezza con noi stessi e con le persone che abbiamo vicino, cioè o con chi hai davanti comunque. Ma sì, poi è sempre questa cosa qui che anche suonando questa musica qui, mentire non ha senso. E poi è anche difficile farlo, anche proprio per come si suona. Quindi è anche proprio la sincerità e anche magari una foto di un momento, insomma, di immortalare anche il momento è anche la cosa bella. Ma se penso a The Game era esattamente sì, la foto di quel periodo lì. Anche ai tempi la voglia di provare a suonare questa musica magari non esatta, cercando di farlo in un modo molto personale, no? Poi sì, se lo risento, un bellissimo disco, e il fatto di aver registrato a 20 anni è una cosa che mi stupisce, nel senso che è un bellissimo disco. Poi Ramadama uguale, nel senso un doppio di vai kamikaze, fai un doppio disco, 22 pezzi, registri tu, però era quello che eravamo in quel periodo. È la foto di quel momento, dai. No. Quindi anche questo disco qui è la foto di questo momento qua, ma a me fa molto piacere viverla così e essere veramente contento e fiero di tutte le cose che abbiamo fatto, perché se ripenso a quelle cose lì... Sono quei bei ricordi, sì. Comunque... Non è una cosa che rinneghi o dici no, così non più. Cioè, semplicemente siamo diventati un'altra cosa, ma perché i fatti, la vita ci ha portato ad essere questo, fine. Cioè, non esatto. Comunque tutti quei dischi lì sono esattamente proprio immortalano veramente il momento in cui eravamo per quello che era. Quindi The Game, giovani avventurieri, in un genere in cui magari nel 2005 c'erano molti più canoni, no? Poi Ramadama, beh, è proprio naif a massima potenza. Poi nel frattempo c'era anche lo split, c'era prima ancora c'era stato Coalition, no? Che poi abbiamo fatto due pezzi con Perini, suonavamo con Perini, è stato giusto, è stato bello registrare quei pezzi con Simone, tutto, il tributo è Belvedere, abbiamo fatto quella roba lì. Grande mazza. E via dicendo, quindi siamo, cosa ha scritto Mazza? Ma Fiero, cosa che fai? Luca Mazza, uno dei numerosi parassiti del punk rock che è ancora a piede libero, che si deve vergognare. Ti voglio bene. Che si deve vergognare. No, tra l'altro, infatti, è stato bellissimo rivedere Mazza l'ultima volta che abbiamo suonato all'Irritate Fest. Sì, ci ha chiesto un omaggio, poi ci ha chiesto 10 euro per la benzina perché veniva da lontano, poi ci ha scroccato da bere, però lui ha fatto così. Adesso aspettiamo un attimo che la sua replica, che sicuramente replicherà. Ma chissà, adesso deve trovare qualcuno che gli scriva i messaggini, che da solo non so se la fa. Ma no, però alla fine è un bravo ragazzo. Tutto sommato, togliendo questo, è anche un bravo ragazzo. E eccoci qua, rientriamo sempre in collegamento con Matteo Edigo degli Action Man. Noi non ti sentiamo più. Come non mi senti più? Io appena pianissimo. Io vi sento. Però da qua non posso fare niente sul vostro volume. Io da qua posso Hai sistemare ragione. Il mio. Comunque, dicevo, adesso a parte le gag con Mazz che saluta e dà il buon proseguimento, io mi sono sempre, io penso, non so quante volte te l'abbia detto, io se mai avessi saputo suonare in basso la metà di come lo suoni te, io sarei stato contentissimo a vita. Io penso che a livello di basso mi è sempre piaciuto un sacco per come suoni e per come hai tirato fuori le varie melodie di quello che tiri fuori. Quindi. Ma ti ringrazio tanto, grazie. Ma poi di melodie tiro fuori poco. Io il mio modo di suonare lo vivo molto ritmico, mi viene così. Però ti ringrazio molto, se mi fa molto piacere se arriva, ecco. E penso che insomma non sia così immediato il fatto che arrivi come suono, quindi se lo apprezzi mi fa molto piacere, no, anzi, se lo apprezzi non apprezzi. Esatto, no, l'ho sempre apprezzato, perché al basso bene o male si viene sempre un po' a mancare, quello che viene un po' denigrato, in realtà c'è lui, c'è anche e si sente. Grazie. E si sente. Mi riprendo solo io perché stai parlando di me. Scusa, che cazzo, non suono il basso, non so anche fare. No, poi ho suonato il basso in un gruppo, nei Memories of Apocalypse. Oddio, quello che è stato poi l'inizio di 1000. No, prima erano Ashes Become Up, poi poi sono diventati. Non ero troppo sul pezzo per io. Vabbè, il basso è uno strumento. Il basso è uno strumento difficile. Difficile. Sì, esatto. È vita esatto. Intensa. No, va bene. Continuando a parlare ancora di questo speed of life. Mi è venuto in mente adesso, dato che comunque abbiamo iniziato a parlare su un discorso di più strumentale che cantato rispetto a un tempo. Ma a sto punto mi è venuto in mente, non avete mai pensato effettivamente di fare un album totalmente strumentale? Perché comunque con le melodie che tratte fuori, magari senza ritornello, tirato fuori con gli Action Man, può saltare fuori qualcosa di comunque interessante? O potrà. Ma guarda, però non lo so, non ci abbiamo mai pensato. No, in realtà sì, non è che ponderiamo molto. Cioè, ma magari avendo Zai Cacao che è completamente strumentale, diciamo sì, che ci sfoghiamo lì. Sì, esatto. No, non ci abbiamo mai pensato, non è mai venuto. Poi figurati, nelle cosiddette gemme, nelle improvvisazioni, tra virgolette, grandi come delle case che facciamo, che dal vivo vengono le robe strumentali, se arrivano ben venga, ma fare un disco così probabilmente sarebbe un po' too much. Sì, ma perché ancora non ce la siamo sentita. Poi ti ripeto, con i Cacao facciamo la nostra roba strumentale che insomma siamo sempre noi, quindi no, in questo genere sarebbe veramente troppo, forse. Sarebbe proprio insomma non lo so creare situazioni complicate che ci viene ad ascoltare. Rovinare giornate. Ma che già non avere ritornelli sì, rende difficile. Poi qualche ritornello in realtà c'è, cioè, sì, anche nel disco. Esatto, però se lo vuoi trovare, poi insomma. Sì, però direi. No, sarebbe anche lì forzare qualcosa. Noi in realtà cerchiamo di non forzare niente e essere veramente. Non avendo forza, sì, andiamo avanti di inerzia. Siamo quello che siamo. Esatto, ribadiamo il concetto: siete quello che siete. Sono come sono. Per dirla con. Con un eufemismo, per modo di dire. Allora, praticamente è passato. Allora, oggi è il 16 marzo. È un mese che è passato, che è uscito il disco Speed of Life, che è uscito per San Valentino, il 14 di febbraio. Esatto, se bell'idea. No. Esatto. No, sì, così, a casaccio, bell'idea. Un senza nessun cuoricino, senza nessun messaggio d'amore, ma in realtà bella, ti sto discone. Ma no, è capitato che insomma coincidenza. Una coincidenza, dai. No, vabbè. Quindi, noi siamo contenti. Adesso i feedback che stiamo avendo. Esatto, era quello che volevo arrivare. Tramite poi, insomma, i social e quello che vediamo da Spotify. Più o meno, insomma, adesso non so se 20.000 ascolti sono tanti o pochi. Per noi sono tanti e ci fa piacere. Insomma, che la gente si abbia ascoltato. Ecco. Poi figurati, guardando le varie statistiche, che è anche interessante, insomma, no, grandi ascolti in Sud America che ci fanno super piacere. E qualcuno ci ha anche scritto facendoci anche domande sul disco, sulle cose. Noi rispondiamo sempre con grande piacere a chi è interessato poi a saperne di più. Qualcuno mi ha anche scritto che non capisce perché c'è così tanta musica, così poco cantato. Io gli ho spiegato, nel senso, gli ho detto quello che poi abbiamo detto qua, che è venuto così. Però insomma, non capisco. Ho detto, guarda, ma c'è poco da capire, siamo fatti così, cioè, questo è. E quindi niente, amore sudamericano. Poi in America si ascoltano un sacco, anche in Canada, anche in Giappone, insomma. Noi siamo contenti, poi figurati, di sti tempi anche riuscire a catturare l'attenzione di qualcuno paradossalmente è sempre più difficile. Mi ricordo i tempi di MySpace, c'erano delle tempistiche molto diverse, sì. Cioè non c'erano le storie, fatti, niente storie. No, ma era una lentezza, c'era una velocità diversa, un po' più lenta anche nelle cose. Quindi. Beh, perché era un proprio un altro periodo. Era un altro periodo, cioè. Sì. No, adesso non è che ci si può rifare a MySpace, che è il medioevo, se, anche se sono passati 10 anni. Sì, quindi. Quindi no, noi siamo contenti di come sta andando. Noi pretese poche, aspettative meno. Però siamo. Cioè, era un disco che volevamo registrare a tutti i costi. Sì, l'abbiamo fatto. Una cosa per noi, sì, più che altro. Certo. L'abbiamo fatto, siamo contenti. Poi la foto del momento. E... Esatto. Certo. Poi Urlaub Dischi, che sono dei super ragazzi, che c'è. Sergio, Tommy e l'Arianna. Loro hanno voluto stamparcelo e siamo veramente felici che abbiano voluto, insomma, aiutarci a partecipare a questa faccenda. E quindi abbiamo anche i vinili. Che potete trovare nel loro vinili store. E quindi noi ci fa ancora più piacere di avere questo supporto. Non abbiamo stampato i CD perché a noi costava troppo. Quindi, però, insomma, non è andata così. Noi siamo contenti, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, soddisfatti di come abbiamo registrato, di come abbiamo composto di tutto. Okay. Siamo molto contenti. Quindi questo è, insomma. No, giustissimo, giusto. Se poi a qualcuno piace, ancora meglio. Se poi qualcuno piace, insomma, l'idea, sentirci suonare, ancora meglio. E anzi, ringraziamo tutte le persone che da tanto tempo ci vogliono bene, ci ascoltano, compreso te, esatto. E non, che non è mai scontato. E soprattutto di sti tempi, che è pieno di robe da ascoltare, È un'epoca caotica, dai, che comunque anche, cioè, negli ascolti diventa un po' una roba schizofrenica, perché comunque hai mille input da mille parti. Sì, quindi già, esatto. Bene. Già qualcuno che ci dedica del proprio tempo, per noi è veramente qualcosa di bellissimo. No. Quindi grazie. Ascoltano. figurati, se per me è sempre un piacere avervi qua. E rientro per gli ultimi minuti del Storm Rock qua in collegamento con Diego e Matteo degli Action Man. Ultimissima domanda che poi vi lascio liberi, così ho modo di mettere anche l'ultimo brano, era After Era da Speed of Life, il vostro quinto album. Ho la domanda di conclusiva, come quella d'apertura dei NoFX, e quella conclusiva in realtà è scaricabarile, nel senso, c'è qualcosa che non vi ho chiesto che vorreste dire? No. Però se ce lo vuoi chiedere, puoi chiederselo. Puoi chiedersi quello che vuoi. No, adesso in realtà non saprei. No, neanche io. Al momento l'unica cosa che direi oggi è che è un giorno triste perché è morto Dandy Bestia e a noi ci dispiace. È vero. Perché non bisogna mai dimenticarsi anche, insomma, dei capi scuola. E di quello che hanno fatto. Quindi poi, anche se tu senti gli schianto, se senti noi, non c'è niente a che vedere. In realtà poi delle traiettorie che in realtà partono da loro hanno toccato chiunque si approccia a un certo tipo di musica in un certo tipo di modo. Quindi loro, insomma, di tutto sono hanno stati... aperto le porte, dai, diciamo. Beh, hanno a questo punto, allora, brezze, guarda, sì. Mi ricollego, vabbè, non c'entra un cazzo, però è stato molto bello suonare all'Arci Dallò con Bob Korn, con Tizio, che per noi è stata una persona, almeno per i Cacao, credo, no? Che ha battuto quello che prima, cioè comunque le scene erano abbastanza impermeabili, no? Fino a 10-15 anni fa, cose così, e avendosi fatto suonare nei suoi festival, musica nelle valli e quant'altro, cioè, abbiamo visto come Mirko, come i Camillas, credo, no? Sì. Che hanno rotto delle porte dicendo: cazzo, vabbè, non è che devi suonare per forza il punk per avere un'attitudine così, cioè è una questione attitudinale e basta, puoi suonare quello che vuoi, puoi avere la chitarrina, puoi fare le scoregge, però dipende con che attitudine lo fai e come lo fai, quella è la tua verità, ecco, dico, non, cioè far vedere che te la vivi così, fine, che c'è un altro modo di vivere, un altro modo di approcciarsi alla vita ed essere veri comunque, ecco, vai. E questo credo che valga per tutti i generi, per ogni approccio alla vita e per tutto, quindi grazie e bacioni. Benissimo. Io, come dicevo, effettivamente sono arrivato alla fine di The Storm Rock. Io, ragazzi, come sempre vi ringrazio per la disponibilità, spero di vedervi presto e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grandissimo. Ciao, grazie a tutti, grazie mille grazie per averci voluto da te. Figurati, un abbraccio. È sempre un piacere. E io, come dico, a prestissimo, speriamo. Bravissimo, speriamo presto. E come di consueto vado a chiudere la puntata con buon punk rock a tutti.